la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, sono le 16:30, primi 31 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto della versione di Oscar in diretta in podcast come sempre. Oscar Giannino, e vi ricorda l'indirizzo della versione di Oscar @radio24.it per intervenire: 800 24 00 24. Mi interessa particolarmente, visto che di questo parliamo oggi, eventuali telefonate di insegnanti o dirigenti scolastici o di famiglie che nella scorsa estate, cioè nell'estate della nostra signora 2016, in quattro capoluoghi italiani, cioè Napoli, Milano, Roma e Palermo, furono interessati, o nella scuola presso cui lavorate o perché vi avete mandato i figli, l'iniziativa straordinaria che per la prima volta venne fatta nel 2016, sperimentale, che permise appunto l'apertura in estate di 400 scuole in quei quattro capoluoghi. Perché mi interessa che telefoniate? Perché parliamo di una storia che oggi scrive Il Mattino di Napoli, mettendola, a mio giudizio, giustissimamente in prima pagina, mentre nessun altro quotidiano se n'era accorto, che riguarda il fatto che fin da il successivo settembre del 2016, visto il successo di questa iniziativa, che è un'iniziativa volta naturalmente a garantire coesione sociale, un supporto per le famiglie che ad agosto non vanno in vacanza, anche tra l'altro per chi ha difficoltà nella continuità scolastica a evitare l'abbandono scolastico, quindi ha una ovvia pluralità di finalità, tutte positive. Ecco, fin da settembre del 2016 ovviamente il ministero disse: beh, visto il risultato positivo, ampliamo nell'estate del 2017, estendendo questo esperimento, lo rendiamo via via dal prossimo anno gradualmente, ma lo estendiamo in tutta Italia. E quindi, rispetto alle poche decine di milioni che erano stanziate nell'estate 2016, per il 2017 è stato previsto un investimento iniziale di 240 milioni di euro, perché l'iniziativa rientrava nel PON, cioè in quei piani operativi nazionali che fanno parte del QCS, del quadro di coesione sociale, che viene cofinanziato dall'Unione Europea. Quindi i soldini iniziavano a essere di più, si pensava fino a 6.000 scuole, se non che. Che cosa succede? Succede che non se ne farà nulla. E allora la spiegazione del perché, malgrado 8.000 scuole, non 6.000, abbiano fatto domanda, la spiegazione del perché è, secondo me, uno dei tanti, purtroppo amari, esempi di cosa davvero in Italia continua a separare gli annunci delle cose positive da fare rispetto poi a se e come vengono fatte, o, come vedremo in questo caso, non fatte, purtroppo. Come vi ho detto, il problema non sono i soldi, non è l'austerità. Non è il fatto che si spreca in altro. No, i soldi ci sono da tempo, ma qualcos'altro non ha, ohimè, funzionato come doveva. Allora, poiché la tirata fuori Il Mattino, la spiega Il Mattino con articoli e con interviste, abbiamo con noi chi anche ne ha scritto, e cioè insegna storia della pedagogia all'Università di Bergamo, Adolfo Scotto di Luzio, che è con noi. Grazie, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ci spiega e spiega ai nostri ascoltatori, che non ne sanno nulla, che cosa è successo e come mai l'annuncio che riempiva il petto con tanto orgoglio, giustamente, dopo l'esperimento dell'estate 2016, il fatto che i soldi ci fossero, si traduce in un nulla di fatto? In parte lo ha già spiegato lei in maniera perfetta nell'introduzione, cioè non è una questione di soldi che non ci sono, è una questione di naufragio amministrativo, e cioè di quella capacità che dovrebbe essere in capo ad un'amministrazione razionale ed efficiente di raccogliere i progetti, di selezionarli, di arrivare soprattutto in tempo all'appuntamento programmato, e quello che è successo è proprio questa incapacità di cogliere le date, i momenti che si erano fissati nel quadro dell'iniziativa dispiegata, e cioè programmiamo di tenere aperte le scuole quando le scuole chiudono, e cioè a partire dal mese di giugno, al massimo dal mese di luglio, l'istruttoria, il lavoro preparatorio per selezionare i progetti si è concluso solo due giorni fa. A questo punto dovrebbero partire i bandi, e naturalmente ci sono tempi tecnici per espletare questi bandi che richiedono almeno un mese, e di conseguenza si arriverebbe alla fine di agosto, inizio di settembre, cioè esattamente quando le scuole riapriranno i loro cancelli e gli studenti italiani ricominceranno a sciamare dentro i corridoi delle aule scolastiche. Ma scusi, ma se si sapeva da settembre del 2016, cioè che cos'è che ha ritardato così tanti mesi? Cosa c'era? Una commissione centrale al Ministero che doveva, visto che si estendeva l'esperimento da quattro città a poche centinaia di scuole ad alcune migliaia, doveva architettare dei criteri? È lì che si è fermata la cosa? Sì, bisognava costruire un dispositivo più efficiente, cioè nel momento in cui si passa da una fase sperimentale di poche centinaia di scuole a una fase che prevede invece una partecipazione massiccia delle scuole, l'impegno avrebbe dovuto essere programmato in maniera molto diversa, ma questo evidentemente non è accaduto. Dipende dal fatto che questo progetto è stato concepito al centro, e io questo mi piacerebbe discuterlo, perché in realtà il centro, cioè il luogo dell'amministrazione centrale dello Stato italiano, in altre fasi storiche è stato molto efficiente, è stato un motore, diciamo sì, di mobilizzazione sociale del nostro paese. Oggi questa funzione non viene più esercitata. Allora, l'anno scorso c'era stato un problema che era stato segnalato, ecco, dai quotidiani delle quattro città, perché una volta poi che si era ammessi nella prima sperimentazione si era autorizzati, no, dal Ministero, c'era il problema che, venendo poi i fondi, come abbiamo detto, in parte finanziaria dell'Europa su fondi PON, il problema era che ci voleva un'autorizzazione ad hoc per passarla alla disponibilità di tesoreria dei singoli istituti, e anche lì c'era stato qualche problema. Ma qui siamo in presenza del fatto invece che un progetto annunciato con straordinario e giusto, legittimo orgoglio, per cui si sono mobilitati e preparati anche, mettetevi nei panni dei dirigenti scolastici che si sono candidati, che hanno parlato con i docenti, magari hanno anche detto alle famiglie, speriamo, naturalmente bisogna aspettare la risposta una volta che noi presentiamo la domanda, però fate conto che è possibile, visto che i numeri sono ampi, che quest'estate restiamo anche aperti un po' ad agosto ad offrirvi dei servizi, e improvvisamente si arriva al fatto che solo il 13 luglio... c'è una prima risposta, e adesso dovrebbero partire i bandi. Allora, abbiamo come secondo ospite la dirigente di Istituto Superiore Morano di Caivano, Eugenia Carfora. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la sensibilità. No, che sensibilità, lei deve sapere che quando l'abbiamo avuta ospite in trasmissione abbiamo avuto un seguito di giorni e giorni di ascoltatori che erano tra l'entusiasta, i commossi, coloro che volevano sapere come si poteva darle una mano, qualcuno che si era anche innamorato sentendola e ho dovuto diffidare dicendo guardi che della questione non ci occupiamo di vita privata, glielo dico sinceramente, guardi, lo sanno tutti in radio, è diventata perché ha parlato con una passione che è la sua, chi non la conosce, chi ha imparato negli anni a seguire quello che ha fatto non si stupisce, ma chi si è imbattuto nella sua voce radiofonica quel giorno se lo ricorderà a lungo, ed era esattamente quello che noi volevamo, grazie a lei. Allora, mi interessa sapere, dal suo punto di vista, la premessa è che la dottoressa Carfora si dà da fare molti anni perché non vengano chiuse le scuole nelle parti dove opera, della grande Napoli, della grande conurbazione, quelle in cui ci sono i maggiori problemi di basso reddito, bassa coesione sociale, tassi purtroppo di illegalità, perché le reti criminali subentrano allo Stato che non esercita il controllo del territorio e magari chiude anche le scuole. Questo, la sintesi è per richiamarvi, se non vi ricordate, chi abbiamo qui come ospite. Ma quello che ci interessa oggi capire è qual è l'impatto che questa promessa non realizzata per i tempi burocratici del Ministero ha su una dirigente scolastica come lei. Guarda, casi in realtà dove la coesione sociale, l'interesse delle politiche sociali verso i ragazzi, verso la comunità è un po' più avanzato della nostra, sicuramente è una delusione, ma immaginate in realtà difficili come le nostre, dove è soltanto col gioco col tempo, anticipare che cosa può accadere in un parco come quello del Parco Verde, come altri quartieri difficili, e non essere pronti per dare quella risposta, ecco che c'è qualcun altro che con delle iniziative certamente non istruttive possono rapire i ragazzi. Io dico che alcune realtà non dovrebbero essere soggette a progettazioni, a candidature. Bisogna creare un sistema stabile, efficace, efficiente e anche di registrazione di quello che è il risultato in modo impeccabile. Mi spiego, se lei va in una casa discografica per realizzare una bella musica, una bella canzone, ci sono prove per arrivare sul palco di Sanremo ed essere impeccabile. Io non comprendo perché la scuola, che è il cuore pulsante della nostra nazione, deve essere sempre soggetto a delle politiche, a delle commissioni, a delle valutazioni, deve passare un certo numero di tempo, dimenticando, mi è piaciuto tantissimo l'intervento di chi mi ha preceduto, ma noi ci dimentichiamo che già la scuola è diventata la vera e propria parte più importante di una comunità. Noi siamo aperti tutto l'anno da un punto di vista tecnico-amministrativo, gli istituti superiori in particolare rallentano un pochino, e dico poco dopo il 15 luglio. E dopo il 15 luglio, in effetti, tu già devi essere pronto per non deludere quei ragazzi, quelle famiglie a cui hai detto non vi preoccupate, se avete problemi, noi facciamo questo e questo, ci attiviamo, ci prodighiamo, arriviamo. Oggi, in questo periodo, se lei va anche nelle realtà difficili, ci sono motorini che girano a vuoto, ragazzi che vanno sui pullman, raggiungono le località marine, e noi, povere scuole, per quando possiamo immaginare una organizzazione meravigliosa, non arriviamo dove dobbiamo arrivare. E quindi, se uno deve realizzare dei progetti, non in modo oculato, precise, perché noi dimentichiamo di essere una scuola, non ci possiamo solo permettere di dire oggi faccio una partita di calcio, oppure oggi faccio una partita di scacchi. Tu devi dare sempre il meglio di te in termini di istruzione e contemporaneamente di ricreare quell'attenzione verso questi ragazzi così abbandonati. Per cui io credo che la nostra cultura italiana deve divenire veramente efficace e efficiente, ma con la scuola non si scherza, con le promesse ai ragazzi non si deve per niente scherzare. E poi dico un ultimo grande dolore che devo rappresentare, io vi dico grazie, ma anche chi dobbiamo mettere a lavorare con i nostri ragazzi? Queste condizioni di prendere esperti esterni è un valore aggiunto, ma se noi andiamo in una bella città di Milano, tu prendi una bella esperienza, prendi il testimone d'eccellenza che attira i ragazzi e realizza l'attività, ma in realtà come questo tu ti ritrovi anche delle persone che vedono in questa esperienza un'opportunità di lavoro. Mi dovete perdonare, nella scuola ci vogliono non solo persone veramente appassionate, ma ci vogliono delle persone preparate ed impeccabili. Nel mese di luglio, come ha detto il collega, la persona che mi ha preceduta, lo ribadisco, noi dobbiamo essere prima di tutto dei dirigenti efficaci e efficienti nella organizzazione, perché noi dobbiamo tutelare anche l'investimento che fa il Ministero, e non ci possiamo permettere di prendere il primo che arriva, faccia un'attività per questi esatto. ragazzi. Qui veramente ci vuole uno studio efficace. La mia proposta è che queste realtà complicate devono avere un sistema progettuale non a tempo ad intermittenza, perché c'è sempre l'altro che sta dietro l'angolo, che rapisce, e lo ribadisco ancora una volta, quel ragazzo con una semplice motoretta, con una scimmietta sulle spalle, e vi parlo di cose viste con i miei occhi, che è molto più attraente della non c'ho scuola. Dubbio, non c'ho dubbio. Allora, quando la dottoressa Carfora parla della progettazione, io vorrei che fosse chiaro a chi ci ascolta che cosa vuol dire. Vuol dire che in concreto come ha funzionato selezionato la scorsa estate nei quattro capoluoghi in cui vi ho detto. Una volta che arriva il documento all'istituto con cui il MIUR conferma formalmente l'assegnazione dei fondi, quello che adesso sta arrivando adesso praticamente dal 13 di luglio in questi giorni qua, a quel punto e quando arriva la disponibilità dei fondi sulla tesoreria della scuola, che è stata abilitata e riconosciuta, inserita nel programma, a quel punto il dirigente, insieme ai consigli di istituto eccetera, si deve confrontare, lo ha fatto prima probabilmente, però per capirci deve averlo fatto, perché deve vendere i famosi bandi di cui parlavamo prima, quelli per cui poi devono passare almeno 30 giorni i bandi, attraverso i quali individuare, ecco ciò di cui parlava l'autoressa Garfora, gli esperti, associazioni, cioè coloro che sono necessari per i moduli individuati, per offrirli concretamente. Allora è questa capacità di progettazione che dovrebbe essere stabile sul territorio, però non a livello nazionale, perché ovviamente quello che serve è che sia diffusiva sulla rete degli istituti, quindi stiamo parlando di cose che dovrebbero spettare alla autonoma capacità organizzativa, con relativi anche metodi sperimentati di queste procedure sotto le dirigenze scolastiche regionali. A quel punto si fanno i bandi e a quel punto, in coerenza ai moduli, e a quel punto i moduli sono della qualità e degli argomenti che sono stati considerati prioritari e utili per ogni tipo di scuola. Ma se non c'è il tempo, perché te lo dicono adesso, non ce la farai mai neanche per l'apertura dell'anno scolastico. Questo per spiegare a chi è a casa e per capire in ogni caso, in questi migliaia di istituti che si sono candidati, quanto ampia e oggi la delusione. Aggiungo un'ultima cosa: oggi siamo in una giornata di fuoco comunque per gli operatori della scuola, perché stanno passando gli ultimi giorni, e la scadenza è il 25 luglio, per presentare il cosiddetto modulo B, il modulo online per il prossimo triennio di supplenze da parte di coloro che non sono stati ancora messi in ruolo, quindi dei precari, e il problema è che il server del ministero è a terra e inizia a diffondersi il terrore. Trovate sui siti online dei giornali, su Repubblica, gli approfondimenti. Il ministero sta dicendo: sì, il server è a terra, tenteremo il possibile a costo di dilazionare la scadenza del 25 luglio, perché siccome sono 10-20 scuole in cui ciascuno segnala la supplenza, stiamo parlando di 700.000, 1 milione di manifestazioni di interesse. Ecco, ohimè, la scuola è ancora così. Poi ci dicono l'amministrazione digitale. Torniamo tra un minuto. Traffico. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo tornati, stiamo parlando di questo progetto Scuole Aperte per l'estate, che dopo l'esperimento del 2016 doveva estendersi a migliaia di scuole diffuse in tutta Italia, però purtroppo il MIUR ha toppato i tempi e quindi, malgrado 8.000 scuole manifestate che hanno manifestato interesse e malgrado l'accoglimento per 4.633 di loro, arriva troppo tardi rispetto alle procedure da mettere in atto. È vero che ci sono tanti dirigenti che dicono: sì, arriveremo tardi, pur tuttavia non ci fermeremo. Vuol dire che queste iniziative diventeranno parte integrante delle attività dell'anno prossimo. C'è un'intervista, per esempio, al Mattino del dirigente scolastico di Scampia a Napoli, Rotondo, che dice: non ci fermeremo, non ce lo possiamo permettere, e dice: vabbè, è inutile che io faccia polemiche sul ministero, le cose vanno così, ma non ci possiamo fermare a Napoli. La domanda che faccio a questo punto, di nuovo ad Adolfo Scotto di Luzio, è: quali sono le vere ragioni, per esempio, che impediscono una funzione di progettazione stabile all'interno dell'impianto territoriale, organizzativo del Ministero diffuso a livello territoriale? Che cos'è che mancano? Le risorse, le figure specializzate, è contraria alla burocrazia centrale? Nella sua esperienza qual è il problema, Scotto di Luzio? Io credo che il Ministero abbia, diciamo sì, patito in questi anni un impoverimento di competenze a livello centrale, e io credo che il rapporto tra il Ministero e la sua periferia sia molto labile in questa fase, cioè i contatti canali per mezzo dei quali il Ministero tiene sotto controllo. Le scuole sono chiuse, inariditi, perché ad esempio non ci sono persone che visitano le scuole, ma ci sono gli ispettori, ad esempio. Il Ministero non sa quello che succede alla sua periferia, quindi sceglie in alcuni casi delle scuole pilota che dovrebbero rappresentare il fronte più avanzato della sperimentazione didattica e spesso si accontenta di queste vetrine, ma di fatto il tessuto complessivo della scuola come istituzione nazionale sfugge largamente alla capacità di controllo dell'amministrazione centrale. Questo nel bene ma anche nel male, perché naturalmente nessuno sa che cosa realmente accade nelle scuole italiane, e questo è un problema gravissimo, perché noi non siamo soltanto uno stato presente, diciamo così, ma il nostro stato presente è il risultato anche di una storia, di una tradizione, e nella nostra storia la scuola è stata una grande impresa nazionale. È stata. Attraverso la scuola gli italiani sono diventati moderni, e questa grande capacità di leva agita per mezzo del sistema scolastico nazionale è dipesa essenzialmente dalla grande energia giacobina che promanava molto giacobina, sì. Direi dalla legge Siccardi in poi. Io sono piemontese, però insomma è molto giacobina, però era un po' essenziale. Fatto di un paese profondamente arretrato che ancora nei primissimi anni 50 aveva tassi elevatissimi di analfabetismo, un paese moderno. E tuttavia questa tensione che ha attraversato ancora tutta la seconda metà del Novecento credo sia venuta meno a partire almeno dagli anni 90. Quando molte cose crollano nel nostro paese, e tra queste anche la convinzione che la scuola serva. Io temo di dover aggiungere che l'esperienza anche di decenni in cui la politica ha messo al centro della scuola, per via di un'oscena gestione delle risorse umane nella scuola e nell'università italiane, di qui l'infrazione europea contro l'abuso, ripeto, osceno di precari, senza precedenti in nessun paese avanzato, centinaia e centinaia di migliaia, cui di volta in volta accendendo nuove figure temporanee nella scuola e nell'università, i borsisti, gli assegnisti, i ricercatori non di ricerca. Non ci siamo negati nulla dagli anni 70, alla fine degli anni 70 in poi, e questo ha purtroppo sempre di più poi accentrato intorno alla scuola la priorità per chi ci lavora o per chi a quel punto vedeva la propria vita sottratta allo sviluppo di quelle che erano le sue promesse e premesse, e quindi ci ritroviamo ancora adesso dopo una riforma che è stata fatta solo perché dovevamo risolvere il problema del precariato, e come si vede ancora non è riuscito a risolverlo, magari 140.000 in tre diverse soluzioni messe a ruolo entro la fine di quest'anno. E purtroppo credo che anche questo alla fine abbia purtroppo motivato questo iato crescente, questo allontanamento da questa missione storica, dal percepito sociale, che era ciò di cui parlava Adolfo Scotto di Luzio, che era invece il grande contributo alla scuola, tra virgolette, come senso fondante della comunità nazionale. Che pensa di questo la dottoressa Carfora? Io penso che prima di tutto la scuola non può fermarsi, l'ha detto l'altro prese di Scampia. La scuola non si è mai fermata e non si fermerà mai. Le problematiche le sappiamo affrontare. Quello che invece dico, e mi preoccupa questo aspetto, è questa capacità creativa che hanno operatori, che poi tutto sfuma in una capacità di dare risposte nel più breve tempo possibile. Io credo che se tutti quanti noi vogliamo vedere un'Italia libera, dobbiamo investire in cultura. Investimento non significa parlare di precariato e tutto, ma bisogna dare una scuola certa. Una persona che va a scuola deve avere la certezza di fare un percorso a lungo termine senza la preoccupazione se quest'anno ci sono o non ci sono i fondi. Quando lei parlava poco fa di progettazione, sì, la capacità progettuale non è venuta mai bene, perché la creatività in Italia non manca, ma bisogna fare anche delle scelte. Le scuole, ci sono scuole d'avanguardia, ci sono quartieri difficili, come ci sono tante persone che non si piangono addosso e vanno avanti. Quello che invece deve essere chiaro è che noi dobbiamo fare una scelta di campo. Le realtà più complicate non possono stare al tic-tac di una valutazione progettuale. Ci vuole un sistema certo che il progetto che io possa dare ai ragazzi d'estate, un punto di riferimento, non deve dipendere da una commissione o da una mole di progetti da valutare, perché qui ci sono delle priorità. Si parla di priorità per gli immigrati, si deve parlare di priorità di giocare sul tempo per portare un ragazzo a scuola, perché purtroppo, dico purtroppo da un lato, la vera agenzia che prima era la famiglia, ormai è diventata la scuola. Certo. Il tempo, tutto arriva a scuola, è proprio nella scuola che bisogna investire in termini di competenze, capacità e voglia di intervenire presto. Allora, io faccio mia ogni parola di Adolfo Scotto di Luzio per la parte della ricostruzione e l'appello al fatto che è un po' impensabile, soprattutto pensate alle parti d'Italia più delicate. Allora, dire improvvisamente a centinaia e centinaia di istituti che erano pronti, si erano preparati, no, non si fa per il ritardo della commissione, non esiste, cioè, questo non esiste, cioè, è il fallimento di una missione, non so come dire, non voglio fare polemiche, dico però che è intollerabile. Ministro Fedeli, si deve anche al fatto che è cambiato il governo, sì, ho capito, però non è una valida giustificazione, non ne sarà lei colpevole personalmente, però arrivare a giugno per fare ste cavolo di risposte non esiste. E soprattutto grazie alle tante dottoresse Carfora che svolgono il loro compito laddove lo Stato non c'è ed è sotto rispetto all'illegalità che domina e controlla il territorio e il futuro dei nostri figli. Grazie, continuate con Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani alle 8:15, attenti noi due.